Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Roberto Ruffilli è uno studioso di politica, severo, intelligente e impegnato. Ruffilli considera la politica come luogo e strumento per migliorare la società, la vita di tutti i cittadini, specialmente dei meno fortunati. 16 aprile 1988, Forlì. Roberto Ruffilli rientra nella sua abitazione dopo aver partecipato a un convegno. Due finti postini suonano alla sua porta. Ruffilli apre e i due uomini portano un pacco postale. Estraggono un mitragliatore Scorpion 7,65 e conducono Ruffilli nel suo soggiorno. Lo fanno inginocchiare accanto a un mobile. Poi lo uccidono con tre colpi alla nuca. Il 21 aprile gli assassini di Roberto Ruffilli telefonano al centralino del quotidiano La Repubblica. Poi fanno ritrovare un volantino in un bar di Via Torre Argentina a Roma. Come intestazione il documento porta una stella a cinque punte e una sigla che viene da lontano. Sabato 16 aprile un nucleo armato della nostra organizzazione ha giustiziato Roberto Ruffilli, uno dei migliori quadri politici della DC, uomo chiave del rinnovamento, vero e proprio cervello politico del progetto Demitiano, teso ad aprire una nuova fase costituente, perno centrale del progetto di riformulazione delle regole del gioco, all'interno della complessiva rifunzionalizzazione dei poteri e degli apparati dello Stato. Firmato Brigate Rosse per la costituzione del Partito Comunista Combattente. Nella cronaca di quel sabato d'aprile irrompe anche il dolore, piomba lo sdegno per il risorgere del terrorismo. Troncata a Forlì la vita del senatore Roberto Ruffilli, uno studioso delle istituzioni. Ma se le BR intendevano destabilizzare il nuovo governo, la pronta risposta dell'Italia Democratica ha ribadito la loro sconfitta. Roberto Ruffilli nasce a Forlì il 18 febbraio 1937. Nel 1956 consegue la maturità classica ottenendo un elogio dal Ministero della Pubblica Istruzione. Si laurea nel 1960 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Gli studi di Roberto Ruffilli proseguono all'Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica, ISAP. Nel 1968 Ruffilli dirige il Collegio Augustinianum. Lascia l'incarico nel 70 per volgersi più intensamente agli studi dell'evoluzione dello Stato nell'Europa moderna e nel mondo contemporaneo. Gli studi di Roberto Ruffilli non sono solo accademici, ma individuano tecniche e metodi ben definiti. Secondo Roberto Ruffilli, ai partiti politici deve essere chiesto di prescegliere, in sede di competizione elettorale, la coalizione di governo che andranno a formare, così da pervenire a un sistema nel quale blocchi ideali e politici si alternino al governo del paese. Ma studio e ricerca non bastano. Roberto Ruffilli sente il bisogno di partecipare in modo attivo alla vita politica del paese. Roberto Ruffilli entra nei primi anni Ottanta nel gruppo di lavoro del segretario della Democrazia Cristiana, Ciriaco De Mita. Il distacco tra classe politica e realtà sociale, secondo me, è legato ad una considerazione diversa, che le parole, i concetti, il significato dei discorsi non sono più comuni. Il linguaggio comune sul piano politico è saltato. E quello che una volta era il simbolo come capacità di collegamento tra chi parla e chi ascolta, oggi non c'è più. E il distacco è questo. Abbiamo trasformato un paese, la realtà sociale del paese è profondamente cambiata e le culture che erano dietro le forze politiche, che fornivano le parole, i messaggi, il linguaggio per poter comunicare, non sono più adeguate alla realtà. Nel 1983 Roberto Ruffilli viene eletto senatore. Assume un ruolo di primo piano nell'analisi del sistema politico italiano, nello studio e nell'elaborazione del progetto di riforma istituzionale ed elettorale, del quale si occupa come dirigente del Dipartimento Stato e Istituzioni della Democrazia Cristiana. Nel 1988 Roberto Ruffilli diviene consigliere del Presidente del Consiglio, Ciriaco De Mita, per le riforme istituzionali. Ancora oggi il suo progetto di riforma elettorale e costituzionale resta attuale, scriveva Roberto Ruffilli. C'è la possibilità di sviluppare una democrazia politica e sociale attorno allo Stato dei partiti e dei sindacati, delle autonomie e delle riforme, della programmazione e della partecipazione. Tutto questo non richiede tanto accordi su modelli globali di società, richiede invece l'accordo sulla definizione delle regole del gioco democratico che fissi le responsabilità politiche per la progettazione del cambiamento e le responsabilità sociali per la gestione dei servizi e che metta le une e le altre sotto il controllo effettivo, elettorale e non, delle masse e consenta ad esse di gestire direttamente i sacrifici per una nuova espansione. 16 aprile 1988, Forlì, omicidio del professor Roberto Ruffilli. È un atto che rompe un ordine impartito nell'87, l'anno prima, dai principali leader storici dell'organizzazione, Barbara Balzerani, Mario Moretti, Renato Curcio. Cioè noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese. Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo, di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo a fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse. Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi. Anche Francesco Piccioni, dirigente della colonna romana delle Brigate Rosse, dichiara finita l'esperienza della lotta armata. Siamo tutti in carcere, dunque fuori non c'è più nessuno, sostiene Piccioni. L'ultimo atto pubblico da militante delle Brigate Rosse è la stesura di un documento che dice che le Brigate Rosse coincidono con i prigionieri delle Brigate Rosse. È un documento che non prende le distanze dalla storia delle Brigate Rosse, ma dice esclusivamente questo. Tutti noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce? Ma qualcosa non quadra. I terroristi che uccidono Roberto Ruffilli si riallacciano alla storia delle Brigate Rosse. Lo scrivono a chiare lettere nei loro comunicati. E i profili dei loro obiettivi sono presi dal passato. Riformisti, uomini del dialogo e professori. Poi c'è un forte indizio. Una mitraglietta Scorpion 765. Con questa arma si può certamente ripercorrere la storia delle Brigate Rosse. Colpirne uno per educarne 100. Colpirne uno per educarne 100. Firma Brigate Rosse compare la prima volta a Milano nell'agosto del 1970 su un volantino diffuso davanti alla Fiat Siemens. La prima azione, un mese dopo, è l'incendio della macchina di un dirigente della stessa azienda. Fondatori delle BR sono Renato Curcio e Mara Cagol, proveniente dal movimento studentesco di Trento, e alcuni impiegati e tecnici della Siemens. A questo nucleo si aggiungeranno presto un gruppo di ex militanti del PC di Reggio Emilia, fra i quali Alberto Franceschini, Giorgio Seneria e Prospero Gallinari. La prima impresa di rilievo è il rapimento nell'aprile 74 del magistrato genovese Mario Sossi, che viene rinchiuso dai brigatisti in un covo sugli Appennini Liguri, interrogato e poi rilasciato. Ma è nel giugno dello stesso anno, con l'uccisione di due missini a Padova, che le DR cominciano a sparare. Si inaugura una stagione di sangue che avrà il suo culmine nel 1977 con 31 morti e 337 feriti. Nel frattempo, nel 1975, la fondatrice delle BR, Mara Cagol, muore in un conflitto a fuoco e Renato Curcio, suo compagno, viene arrestato l'anno dopo. Il nuovo vertice del gruppo, il cui leader più noto è Mario Moretti, darà alla lotta armata una nuova e ambiziosa parola d'ordine. Mirare al cuore dello Stato. decine di omicidi, ferimenti, attentati, fino all'attacco al cuore dello Stato, il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione dei 5 uomini della scorta il 16 marzo del 78 a Roma, in via Fani. Al microfono del TG2 c'era quel giorno il nostro direttore, Giancarlo Santalmassi. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Questa è la notizia per la quale questa edizione straordinaria del TG2 a quest'ora inconsueta per i nostri lettori. Secondo un primo flash d'agenzia delle 9:28, Aldo Moro è stato sequestrato. Il fatto è avvenuto nei pressi dell'abitazione dell'onorevole Moro. Il capo della polizia ha parlato e il ministro dell'interno Cossiga ovviamente sono sul posto. Si parla di un bilancio sanguinoso di questo attentato. Ripetiamo che il primo flash d'agenzia parla di sequestro. Il bilancio sanguinoso di questa vicenda è purtroppo alto. Sarebbero 5 le vittime, tutte della scorta del presidente della Democrazia Cristiana. Sono 3 carabinieri e 2 agenti di pubblica sicurezza. È in corso il riconoscimento delle salme che sono non lontane dal numero 142 di via Mario Fani a Monte Mario, dove appunto è la casa del presidente Moro. Dopo la pausa torna Giallo e Nero sull'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Giallo e Nero di Daniele Biacchessi. Il 9 maggio 1978 viene rinvenuto il corpo senza vita del presidente della Democrazia Cristiana. Sta dentro una Renault 4 a Roma in via Caetani. Aldo Moro, un riformista, proprio come Roberto Ruffilli. Così, in una tarda mattinata di maggio, si è chiusa a Roma la pagina più nera mai scritta dalle Brigate Rosse. 54 giorni per scriverla, dalla strage di via Fani all'assassinio di Aldo Moro. Una pagina gremita di parole, e di paura prima, ma di indignazione popolare dei cittadini poi, col passare dei giorni, per questa strategia della barbarie. Emozione, ma non più incredulità di fronte a una sfida senza volto. Angelo Caetani, nel cuore della vecchia metropoli che ha conosciuto 1000 altre tragedie. Là in fondo una Renault con dentro un uomo ucciso. Poco prima dell'uccisione di Aldo Moro e dei 5 uomini della sua scorta, un gruppo di terroristi che successivamente entreranno nelle Brigate Rosse uccide con una mitraglietta Scorpion 7,65 i giovani militanti dell'MSI, Movimento Sociale Italiano, Franco Bigonzetti e Francesco Ciabatta, Roma, via H. Larenzia, 7 gennaio 1978. Di sera a Roma, gruppi di neofascisti si scontreranno con le forze dell'ordine. Un poliziotto ucciderà il militante missino Stefano Recchioni. La mitraglietta Scorpion 7,65 torna a colpire il 27 marzo dell'85 a Roma. Cade sotto il piombo rosso il docente di economia politica, presidente dell'Istituto di Studi Economici della CISL, Ezio Tarantelli, un uomo del dialogo, un riformista, esattamente come Roberto Ruffilli. Il sindacato europeo si è sviluppato storicamente nei singoli stati. Storicamente il sindacato europeo è un sindacato di origine socialista o comunista, e quindi è un sindacato che fin dall'origine ha dovuto e qualche volta anche voluto giocare il ruolo di cinghia di trasmissione tra la sinistra del paese in cui si trovava, la sinistra dell'Italia, dalla Spagna all'Austria, e i propri aderenti, i propri iscritti. Questo ha fatto sì che un sindacato che era nato in nome dello slogan operai di tutto il mondo, unitevi, si è sempre più racchiuso nell'ambito delle frontiere nazionali, proprio in quanto il suo ruolo è divenuto sempre più quello di cinghia di trasmissione non tra gli operai di tutto il mondo e i governi sovranazionali, ma tra i governi di ciascun paese e gli operai di quel paese. La stessa arma passerà dalla vecchia alla nuova generazione brigatista, di mano in mano, come un lugubre totem, Il 10 febbraio 1986, a Firenze, toccherà a Lando Conti, ex sindaco del capoluogo toscano, iscritto al PRI, Partito Repubblicano Italiano, fino al 16 aprile 1988, l'omicidio del professor Roberto Ruffilli. Questa è dunque la lunga scia di sangue lasciata dalla mitraglietta Scorpion 765. Il commando che uccide il professor Roberto Ruffilli sarà comunque presto identificato. I killer vengono tutti arrestati tra il 1988 e il 1989, durante le operazioni delle forze dell'ordine di Roma e Milano. Nella base brigatista di via Dogali, nel capoluogo lombardo, viene ritrovata una mitraglietta Scorpion 7,65. È la stessa utilizzata per gli omicidi di H. Larenzia, Ezio Tarantelli, Lando Conti. Poi i tribunali emetteranno le sentenze contro i brigatisti responsabili dell'omicidio di Ruffilli. Nell'aprile 1991 i tribunali condannano all'ergastolo in via definitiva Fabio Ravalli, Maria Cappello, Antonio De Luca, Franco Grilli, Stefano Minguzzi, Tiziana Cherubini, Vincenza Vaccaro, Franco Galloni, Rossella Lupo, Daniele Bencini e Marco Venturini. Sono tutti brigatisti irriducibili, gli stessi che nel 1999 e nel 2002 hanno poi rivendicato nelle aule giudiziarie gli omicidi dei professori ed esperti di riforme Massimo D'Antona e Marco Biagi, come ricorda Sergio Flamini, scrittore, autore di numerosi saggi sul terrorismo italiano. Direi vi è continuità. Dopo il delitto D'Antona si tenga presente che vi è stata una rivendicazione dal carcere di brigatisti di quello stesso nucleo che avevano partecipato al delitto Conti, al delitto Ruffilli, l'ultimo che era stato compiuto prima di quello D'Antona. La radice sta sempre nelle vecchie brigate rosse. L'identikit rimane tale quale quello del passato. Naturalmente la caratteristica fondamentale del brigatismo e del terrorismo rosso in Italia è sempre stato quello di colpire il riformismo. Dal delitto Ruffilli 1988 al delitto D'Antona sono trascorsi 11 anni, però bisogna tener conto che le BR hanno ricevuto i colpi e sono state sgominate. C'è dunque una continuità tra vecchie e nuove brigate rosse? Esiste una distinzione sul piano storico? I brigatisti responsabili degli omicidi di Massimo D'Antona e Marco Biagi, arrestati nel 2003, si collegano ai militanti detenuti nelle carceri speciali di Trani Latina, quelli che hanno materialmente sparato Roberto Ruffilli. Risultano identici i loro obiettivi: Tarantelli, Ruffilli, D'Antona, Biagi, uomini dello Stato, consulenti del Ministero del Lavoro, riformisti. Resta però differente il contesto storico e politico, come conclude il procuratore generale di Torino Giancarlo Caselli. Per certi profili le cosiddette nuove brigate rosse sono vecchie. Il fanatismo ideologico, lo sganciamento dalla realtà, la convinzione di essere all'avanguardia di qualcuno mentre non sono all'avanguardia di nessuno, sono oggi le stesse di ieri. In questo senso le nuove sono vecchie. Per fortuna di oggi, se ieri le Brigate Rosse, le formazioni terroristiche in generale, hanno avuto in alcuni momenti, soprattutto nelle primissime fasi della loro esistenza, qualche prospettiva di proselitismo allargato, di avere dei referenti in fasce anche consistenti, di mondo giovanile, di mondo operaio, di mondo intellettuale, la stagione dei brigatisti presentati come Zorro, come Robin Hood, come compagni che sbagliano, poi ancora la stagione del né con lo Stato né con l'ODR, uno slogan molto equivoco che consentiva ai terroristi o agli aspiranti terroristi di illudersi o di pensare che andando avanti significava continuando ad uccidere, prima o poi questa base di disponibilità sarebbe diventata base di appoggio, non soltanto di disponibilità, se non addirittura di reclutamento e quindi di militanza. Oggi tutto questo, per fortuna, mi sembra non esserci più. Può esserci qualcuno nascosto da qualche parte o che ogni tanto viene fuori, per carità, a qualcuno. Mentre per quanto riguarda le vecchie Brigate Rosse, per quanto riguarda il terrorismo degli anni 70-80, purtroppo, obiettivamente, almeno in una prima fase, non era qualcuno, erano molti, tanti. Era un problema con una certa diffusività di massa, non soltanto un problema, come dire, circoscritto in un perimetro ben definito, se non catacombale, abbastanza simile al catacombale. Giallo e Nero, un programma di Daniele Biacchessi. Infoline dbiacchessi@radio24.it.